di malattia, proprio una volta di nascimento. Bisogna lasciare le viti dove sono. Lo so, non mi aspetto. No Claudio, no, ti toccato nulla, ho portato, ho aiutato a. No, l'ha fatto mio, non è mio questo qua, l'ho dato a un altro amico che gli ha fatto di quelli che lavorano a grassi, sì. Ho capito lui che c'è stata la portante, cosa hai detto? No, non è apparato mio questo, è. Me l'ha portato Pinocchetto a farglielo controllare, una la 48, la come si chiama, da quello che c'è a Borole, da Albino, e me gli ha dato una controllatina, capito? Perché non usciva del radio, non funzionava, dai. E lo stavo provando adesso qua, capito? Molto cupa, molto brutta la modulazione, vabbè, vedi un po' cosa puoi fare, sono intervenuto per dirtelo. Sono al computer, 2 secondi, ovviamente ci sentiamo dopo, riprendi lui. Sto pensando a quello che mi hai detto, mi dispiace davvero. Ma i funerali quando li hanno già fatti? No, forse come lo metteranno domani il giornale. Ecco, lo vedevo sputino ogni giorno, eh. Lui aia, volte e volte. È così. Siccome non sapevo il sintomo. Cioè magari sarebbe anche salvato. Non sapevo nemmeno quello che usare gli altri denti. Infatti la moglie gli ha detto, portami una bustina per formare il braccio. Cribato, all'istante. Dice, a quanto si presume è un infarto fulminante. Un avviso, maledizione, non si blocca. Si blocca il flusso, non farebbe più sangue dai bedu. La gente è una ghiscia. Mi dispiace, non ho mai visto una persona costante. Veramente. Peccato. Un ragazzo con tante iniziative, una persona molto educata, molto a modo. Vabbè. Pazienza. La vita è uscita purtroppo. Adesso cos'è che. Ci lascia 2 figli, poveracci, piccoli anche, piccoli. E sono piccoli, non è che sono grandi. Cosa vuol dire? Ma ieri sera me l'ho detto. È un po'. Vabbè. Lasciamo perdere, lasciamo male per il giornale, vediamo. Quando sono i funerali. Ci vado. Ci vado. Va bene, dai, continuate pure, mi sto preparando io, che devo uscire. Ciao, ci sentiamo, cari, ho acceso un po' per scaldare questa radio, che era settimana spenta. Ci sentiamo, ciao Luigi, Luca e chiunque fosse in ascolto, ciao anche a te Rita, salutami a te, no? Lo sento basso. Ciao, Luca. Allora stavo facendo Sandro, quello lì, giusto, l'altro apparato, Luca lì. Si conferma. Ma bisogna farlo controllare diversamente, dai. Ma c'è qualcosa che non può. Non lo so, perché stavo facendo bene, poi mi sembrava che ti stavi spostando di frequenza, eh. Qualcosa del genere. O come se... Stavo mancando la corrente, che stava calando l'alimentatore di voltaggio. E via, va bene, perché non va, mi resta ancora un momento ottimo. Ahia, invece chi gli andava bene, se non si abbassa il voltaggio qua, no? Ci andava bene. Ti confermo. Va più che bene. Per fare, per mettere in un barattino il come si chiama, lo spiegano qua a 4 punte, qua c'è a 5 punte, per metterlo a 4 cosa devo fare? Bisogna mettere una a 4, se vuoi quello metterlo una a 4, è una specie di modifichetta devi fare, eh. Sì, ma i fili sono 5. No, i fili sono 4. No, sono 5. Se ce ne sono 4. Lei ha ragione, che quello a 5 e 13 a quella a 5 c'è un filo in più, capito, però si può fare il lavoro sempre a, a come si dice, a, a 4, dai. Però quello che c'è lì adesso è a 5, capito? Scusa un attimino, ma se io nello spinotto me ne ritrovo 5, cioè lo spinotto è a 5, me ne ritrovo 4, lo spinotto del microfono, perché nel baracchino sono 4, non sono 5. Cioè, tanto male mettere quel filo lì, scusa. Però non so, no, qua c'è uno bianco, uno blu, uno arancione, uno giallo, uno nero. Siamo tutti i microfoni. Napoli, tutti i microfoni che mi sono capitati a 5, vita, tutti, tantissimi comunque, e li ho trovati sempre trappa, partendo da destra, verso sinistra, fa 1, 2, 3, 5, il quarto spinotto lo salti, calza, rosso, giallo oppure blu? Blu bianco. Da blu bianco, dipende. Ok, sono 5, sono tutti colorati. Però si pure che ce ne sono 5, bisogna vedere quelle dello spinotto quanti sono. Quattro, quale spinotto? Ho spinotto il microfono. Stiamo organizzando, andiamo al ghetto. Quanto vuoi che deve giocare? Noi andiamo, facciamo gli attesi. Cioè, vuoi venire? E sono tra quelli dove sai, no? Altrettanto qua. E poi ci sei aggiunto. No, ma sono detto una parte da mamma. Un po' di cosa va fatta già, dai. Manca il resto. Dai, c'è già, ti faccio sapere. Che la partita? Non stiamo preparando. Va pure, arrivate già. C'è il video che non arrivo. Ma quello va, andate. Ci è piaciuto. Solo che purtroppo è un casino qua. È un casino. Grande. Dai, andiamo un attimo. Va bene. Poi un goccio di mirto, Claudio, te lo per digerirlo vuoi? No, lui no, sto bevendo. Non è sto bevendo il Claudio. Qualche bicchiere di vino, pure niente in particolare. Bravo! Io me lo sto bevendo, ho pranzato poccato, ho preso il caffè e adesso mi un bicchierino di mirto me lo bevo. No, non ho ricevuto. Dai che se no non mi preparo più, ci sentiamo. Ciao. Che non sono sul 2 più coppe. Alessandro. A fare un video, buongiorno. Ciao Alessandro, ben ascoltato e dopo un'aria di tempo. Noi. Poco ci stiamo entrando, perché siamo su, che eravamo quasi su quanto la stiamo a letto, dai. Ho capito, no? Ho detto che ci stavo entrando poco perché ero quasi da quanto la settimana a letto, ho capito. Ah, ecco, io ho capito che tutta la settimana a letto, ma ho capito che anche Mogone, tuo padre, non stava tanto bene quei giorni scorsi. Papà Roger, anche lui era mezzo fanzato, eh. Così Dio, perché anche lui si sentiva poco, si sentiva un po' ieri, però quei giorni scorsi non si sentiva neanche lui molto. Faccio già avere. E tu lo so, lui secondo il movimento di domani, non ce l'ho un se noi questa settimana che sia un tempo urgente, capito? Perché mi dispiace lasciarlo così, perché era una parata, funzionava perfettamente, sarebbe questo qua, in AM è un gioiello, in FM no, è come sia in AM, SD non riesco a niente perché le frequenze sono quelle che sono. È positivo, la glielo facciamo vedere, se non è urgente allora quando capita me lo lasci, dai, e glielo porto, dai, glielo passo, tanto io ci vado spesso lì, capito? Ma che? Ci vado spesso. Ah, oh, gaffa, ma è quello di Terralba, vuol dire? Terralba, Terralba. Ah, Terralba, addirittura, addirittura, addirittura Terralba, nel Campidano dobbiamo andare. È positivo, positivo, le cose più complicate le fa lui, dai, le cose più complicate le fate fare sempre a lui, capito? No, perché, ripeto, qua gli hanno messo mano, non hanno capito nulla. E poi, perché non funzionava? Perché l'ha capito il microfono della partita, ha capito un po'. Cavolo, addirittura ha toccato le gare, ma cosa? Ma c'è anche quello di Chiaramonti, non lo so, su certi apparati so che è bravino quello, è quello, non so se c'è gli strumenti per tarare, per fare. No, no, no, ho capito quello di Chiaramonti, non so dire il nome, lo conosco. No, non ne aveva, ha un piometro, va. No, no, non va bene così, non va bene fatto così, capito? Non va proprio bene, non va proprio bene. No, questo già c'era lo strumento per fare quello. Ne ho lasciato uno, ieri gli ho lasciato, a dire la verità, che era tutto fuori proprio, completamente, nelle balle, non andava proprio, andava solo in FM e sugli altri, non andava proprio, né in AM, né... fuori coso e nelle bande laterali, l'ho lasciato uno ieri proprio a lui, no, su quello c'era quello strumento, io non mi ricordo mai come si chiama lo strumento lì, che per mettere per fartelo giusto, per tenertelo giusto, dai. L'ho portato, ma se no lo puoi anche buttare, perché non serve più. Io, siccome sono quello che non butto mai niente, questo è il concessione, non butto mai niente. Allora, ma adesso voglio cambiare il microfono, vedere un po'. Ho provato il microfono, è uscito in radio, ho preso controllo, quindi con le patatine, solo ero qua in FM e le altre, capito? Ed era solo questione di microfono. Positivo, e quando ti viene bene me lo lasci, ma chi è? Non ci sono problemi, dai, non c'è problema, ma chi, dai, per gli amici si fa quello e altro, non c'è nessun disturbo, capito, ma chi, io tanto lì quando ci passo glielo lascio, capito, senza problemi. Bene, tutto ok. Oh, va, parla, noi ci stiamo ascoltando perché sto finendo di fare il carico, capendo il centro, adesso, dopo che me la giornata, una cosa segreta in Campagnola, che ci sono le questioni che stanno aspettando, perché i cani del recinto aspettano a togliere fuori. Ah, positivo, no, c'è un bel sole, ho visto anche io sono qua in campagna, c'è un bel sole, bello veramente, oggi si sta bene, infatti qualcuno sta andando a mangiare lì, ci fa anche bene, se fa anche bene. Aspira, bella giornata di lì, bisogna trovare un po' più freddo che fa la freddo. Quello è vero, perché a me pure mi piace mangiarli fuori, dai, che me li portino dal mare e aspetti fuori nella rifa, capito, con un cucciolo di vino appena di pane, anche a me piace così. No, io andavo sempre alla ricchiera, perché c'era la ricchiera, e c'era il pollo, che li tocchiamo sempre il pollo, mettevo la muta, via, e bisognava lì a cespe. E poi c'è lui che sulla scogliera, col bicchierino, con il bicchierino di pane andando. E a temperatura pure uscita. E noi è così, e lì lì ci sono pure quella zona lì, quella zona di Mare di Fula, di quella parte lì sono pure i ricci, sono i migliori, dai, l'Argentino verso l'Argentina, i stati anche qui sono i migliori, sono lì i ricci, Allora vuole un po' si vede la zona di Oristano, però queste qua sono, perché io sono quelli che sono la zona di Oristano un giorno e sono buone come inustre, forse pure di più. Perché vendono qua con per le palle a portarsi via. No, dice anche lì sono buoni, dalla zona di cosa ho visto che ne vendono a Cancarriera. Ma sono buoni lo stesso, sono buoni ugualmente, però questi della zona dell'Argentiera, tra l'Argentino, andando verso Girendolo io, verso l'Argentiera, in Chile verso Alghero, sono i meglio ricci sono quelli. Sono più, hanno un gusto diverso, sono i migliori, non devo niente da là. Subito. Come lo senti? Io ho un po' malatoso. anche io, Piazza parla. Così. Oh, no, sembra barattoloso. Barattoloso. Baratto, sì. Imbarattoloso, sì, Piazza. Perché l'ho messo dentro la favela, sto parlando dentro la favela. Non so se si prenderà piatti la padura. Il bicchiere lo stesso, cosa? Forse qualche pentola, insomma. Perché poi scade, no? Non ne prendono più ordinazioni. Già lo so che scade, voglio fare da, ma da samba. No, già, perché ho chiesto io, se no lei potrebbe ci avere, ma non avevamo più a nulla detto. Ma ha detto, l'ho chiesto io quando è l'altro giorno, 15 giorni scorsi. Adesso mi sono rimasto qualche punto, ho detto, ma no, no, cioè adesso i punti partono da, sono andando a punto, anche se tu gli dai la, quella tesserina, come cavolo si chiama, della Sisa, no? È per qualche offerta che c'è, però punti non te ne segnano, non te ne stanno segnando punti. È finito il coso. Adesso inizia dopo il 28, mi pare male, che mi hanno detto, dopo il 28 febbraio. A marzo passano i nuovi punti, lui, a marzo. Sì, adesso è finito, anche se vai a fare la spesa non te ne mettono, perché ancora hanno, è azzerata la, la tessera. A marzo ci sono i punti nuovi. Positivo, infatti non mi ha detto una cosa del genere. Te io punto, no, c'è dei punti che non ne stiamo dando adesso. Serve solo per qualche offerta che c'è, a volte c'è qualche offerta, allora c'è, con la scheda c'è lo sconto. Mi saluto, dai, fammi una foto, sono andando a farmi i piatti, ciao. Ia, ciao, ma c'è la partita direttamente, devo cacciare la mondetta, ora c'è la parte. No, mi lo fa tanto, la fammi i piatti, è lui, e allora? E anche quelli vogliono farti terebe, no? Vabbè, voi già siete eravate in due, là. Vepolubiate lo cucciuccio, anche Vepolubiucciuccio. E allora, Franco era nulla, è tornato poco fa a fare compagnia a un amico per una commissione, ed è tornato poco fa. E niente, quindi si è sdraiato qua nel divano adesso. E è stato muscio. Gli ha dato a me i piatti, no? E io ti non sono a fare i piatti, dai. Già siete in pochi voi. Adesso me ne faccio da due piatti, devo anche stendere e finire di pulire qua ancora. Che sono uscita stamattina a fare la spesa e sono tornata alla una. Va bene, là. Già rimango in ascolto. Ci sentiamo più tardi. Ciao. Ehi, ciao Tere, ciao, ciao. Salutami a Franco, tanto sto ascoltando. Ehi, amico. Ciao, Gigi. Ehi, ciao, Franco lì. Ben ascoltato, dai. E stiamo qua, ragazzi, stavo guidando, sono uscito a nulla stamattina a fare compagnia a Marco. Stavo guidando io, alla data l'ho guidato lui, a Rieta stavo guidando lui. Adesso mi faccio un piccolo pizzolino. Ehi, aspetta, lo devo mio figlio ora accompagnarlo, ma vediamo un po'. Attenzione, Franco California, sperando che tu mi ascolti, le coordinate di Papa Tango, Gava, Gava e Gava Gava. Wow, wow, wow, pip. Ciao Cariello. Ciao Fra. Vabbè. Vabbè, avanti durato. Ehi, adesso. Pare compagno amico. Sempre per formaggio e la ricotta, lì. Dove è? Nulla o nulla? Nulla. Ah, nulla. Ma nulla dovrebbe essere... sono qua a provincia del numero, giusto? Ah, va. Passato bene tutti. Provincia di Sassari, nulla provincia di Sassari, anche Bitti è provincia sempre di Sassari. Ella, ella. Ah, con nulla è provincia del numero. Ella, ella. Beh, dopo di Bitti, beh... coso qua, nel nostro paese prima di Lula, e questo paese è in provincia di Nuoro, c'è è un paese tra Bitti e Lula, questo paese è in provincia di Nuoro, poi Lula è in provincia di Nuoro, e Bitti invece è in provincia di Sassari. Quei figli? No, non è un effere, né un effere, non è fai, è un altro nome, allora mi passo sempre, mi passavo sempre, allora me la metto più. No, non so lui. Tutti, ciao a tutti. E comunque il formaggio di Lula è buono, anche la ricotta. Appaga, appaga che chiudo qua e riprendo dopo la macchina, che devo scendere un attimo a Polo Torres. Appaga, Gigi. mi c'è di che l'ultimo piano. Ma tu, fai la bravo, se no quando che vedi dalle antenne, te la posso mano di un quarto d'onda. Ma manco una buffona dura posso fare. Ma tu pari a frio, prendi in giro la gente, ma non vedesci, no? Sembra 95 che ha cercato la praticazione a Roger Pizzo. E allora, sai come? Regolazione, si segna il 24, lei me la volta si è diventato il 24. Ripetitore eco sul pannello frontale, regolazione del livello di eco e del regolatore che permette di cambiare il tono di voce. Sto dicendo che già quello numero 93 ti sto dicendo che sono ben amplificato, non c'è niente per niente. Questi gli altri modelli non li conosco. Poi avevo uno di bombone che lo stavo provando io qua, che andava a Gucci, ti ricordi me faceva Paperino. Vabbè, amplificato e tutto. Ma 93 non è altro di per sono preamplificato e basta. Allora vogliamo chiudere, no? Che l'hanno andato, non è tutto tutti. Come dice? Questo è il 97, che è addirittura il 99. Questo dice, il modello top della serie, dotato di preamplificatore, che ti pare ecco. Roger P, dice, sul pannello frontale c'è la regolazione del livello di eco, il corretto con Roger P, e tono di voce. Capito? Comunque, sto dicendo che fidati, è così. Qua troppo di anche Claudio se c'è ancora. Beh, 93 sono preamplificato e basta. Poi tu lo conosci. No, quello non lo conosco, ho mai usato di quel microfono io. Luca, ti chiedo, guarda quello che c'è scritto lì, ci sono tutti e quattro. Ma c'è scritto che c'è solo a preamplificatore. Questo è il 95, c'è cioè, un 93 normale, cioè ormai è preamplificato, la batteria no. Beh, che ti dico io, e non che tutto luce non c'è grigio. Ma ti dico che è un grigio dai, di colore, con dei bordini gialli, poi c'ha il tastino giallo della portante, il tastino del come si chiama? Dello slider giallo. Mi confermi? Sì, giallo, quello scritto è giallo. Quello scritto è giallo, comunque è quello. E vabbè, diciamo che tutti così, ma tutte le cose che sono andate oggi sono un grigio, più o meno un grigio, con le scritte gialle. Sì, sono così, ma preso poco, tenere. Tutti somigliano, cioè se somigliano tutti sono uguali. Comunque già va bene, dai, non è che sia. Non è una delle migliori, comunque già accettabile. A me non c'è più l'eco, ma. Vagava. Così anche barrattoloso. Ah, che l'eco c'ha quello? No, questo non è l'eco, è il fatto di dire che c'è il computer. Via. Andava, e purtroppo c'è cosa che montano, come si possono modificare quelli, come si modifica l'MB più 4 per dire, no? Come si dice? Si fa un ponte e si possono modificare. Mi pare che abbia la caps, come si chiama, quella condensata. Ceramica. Condensata, non la ceramica. Oh no, pompo, è così. Non è condensata, no, è a condensatore dieselettrica. Beh, il mio per esempio ha la capsula di Giulio ceramica. Poi ne ho quattro di quelle capsule. Conservate io. Ma come sono? Quelle piccole rotonde? Sì. E come sono? Spiega, fammi sapere, dimmi. Come sono? Tutte grigie e poi con i buchettini piccoli? Ah, non è quel modello che sei pensato tu. No, me ne sei buona così. È piccola, sì. È plastificato e poi sopra c'ha quella cosa grigia con dei fodellini e basta. Per proteggere più che altro come si chiama la capsula, la membrana. Ah, così, via. Comunque, come si dice? Comunque la Santa Giulia è diversa. Si trova nei portatili, un portatile che ho io. Solo che rimane più sottile. Come circonferenza è uguale, ma rimane più sottile, va bene, ecco. Io ho i microfoni dei telefoni a 450, che usavo una volta, quelli del Viva Voce. C'ho 4 o 5 di quelle capsule, sono belle. E sono poco sensibili quelli, Io lo so. Sì. Vabbè, comunque. Ciao, andate. Cappa. Vediamo un po' se c'è. Se sarà bloccato un franco. Non mi dice. Antonio, riprendi io le feste di cottero. Che è? Che mi chiama? Guinieri. Eccomi qua. Che mi stavo chiamando? Cappa, ma adesso mi stai chiamando. Iaia. Vabbè. Qua come lo yogurt. Fatti in casa, sono buoni, Giurato. Potevo tagliare la moto a quello, Luca. Un po' resta. Cos'è Popo? Mi avevi controllato la moto a... aspetta, come si chiama? Ma non me l'ha molto più a me. Luigi. Sì. Candela era. No, non è perché non era la candela. È la pedifella, che si incantava. Ah, cappa. Bisogna che vado anche la mia volata, c'è un po' di tempo. E qui sotto, chiusa, sono quasi 3 mesi che non la uso. Quello. Boia. Così a metà. Così a maretta, come va? Cioè va bene. Meglio a metà? No, poi lascio la cameretta. Ma così c'è male. Ma io ti sento bene. Chiama Falcone. Dopo di tutti i maschi. ci sono. Ti va meglio, lascia. Vabbè, magari ci sono